abbiamo dato la foto anche la testa. E quindi hanno, cioè, per non farvi scadere ulteriormente il tempo, perché dopo 8 giorni si faceva soltanto di lunedì, non era riuscito ad sempre. Ok. Lunedì prima. Va bene, e quindi ti hanno allungato ancora i giorni. Sì. Beh, indossano proprio in virtù di queste finte che c'hai. E soprattutto tu dovresti stare a riposo, insomma, benvengo da atto il fatto da bene, il fatto che vieni comunque a lezione e tutto, però insomma nei momenti di maggiore impegno del racchide funzionale, per esempio stare seduto a seguire la lezione è un momento che sembra che non faccia niente, ma il racchide cervicale lo utilizza, seguiti, stai guidando. No, no, sui mezzi si deputizzano perché tutte le vibrazioni. È chiaro, infatti per quello, cioè quando tu finisci i giorni per utilizzare il collare, no. ti consiglio 3-4 giorni in cui il collare lo metti solo in questi momenti più impegnativo, tipo mezzo di trasporto, poi arriva lì e te lo toglie. No? Sì, io i primi 4 giorni sono stato sempre a riposo, ho tenuto 2-3 ore al giorno, non è che lo quindi tanto. Ho tanto quanto c'è, per mangiare lo chiedevo, tanto quando stavo per guardare la TV, non tenevo. Però adesso sto così, non voglio tenere. Che tu? Ma dipende dal grado di organizzazione che uno vuole fare a raggio cervicale. Io vorrei essere tutto un attimo, ma non dato comunque con la morte. Dipende da quanto uno vuole tenere immobilizzato e tenere a riposo tutto i legamenti e i muscoli che si sono distorti. Ecco, però non c'è, ogni ortopedico. Quindi quello morbido comunque io ricordo che ci facciamo, però non tanto, comunque mi chiedeva l'impegno sulla vita. Sì, quello lì c'è più della fase praticamente acuta, di una distorsione corporale. No, infatti, perché c'è chi dice sì, poi dovrei fare io educazione, stanno di revival. Allora, bisogna andare incontro un po' tutti, forse sono carino da ballare. Trauma cranico non può motivo, poi è conoscenza. Siccome Francesco ha detto che è stato auto, tanto sì. Ho detto andiamo giovedì sera, non c'è allenamento. Allora, dove siamo arrivati l'altra volta? Dov'è che ci eravamo fermati l'altra volta? Ragazzi, che mangia adesso? Allora, se vi ricordo bene, dobbiamo iniziare proprio a addentrarci a parlare del game trainer e del locomat, giusto? Sì. Vero? Sì. A giornale? Elisabetta Buzza. E perché? È una domanda. Perché? Secondo te? C'è un sondaggio. No. Sì, ma le gatto in testa a te. A che ora? Ci vede in testa a te. Facciamo un rotto. No, lei è il problema. Ma li puntate che ce l'hai? No, volevo vedi che la cosa è un po' allora le scale le ricordate quelli pensiero per Elisabetta Elisabetta ti vogliamo tutti bene molto no. Bene no. Che misura? No. No. 18 cm abilità della nomenclatura quella corretta del ICF International Classification of Function perché sulla riabilitazione vari termini si sono succeduti per favore tipo, basta inglese per esempio prima esistevano dei termini tipo che esisteva il termine handicap, no? Handicap è stato totalmente eliminato proprio per la qualità della vita, per insomma rispetto, perché implicava come dire. Esaltava proprio la parte negativa, così come disabilità, il termine disabilità e menomazione, per il possibile sono stati soppiantati da questo ICF, International Classification of Function, che insomma è una specie di riunione come non so, possono essere gli organi governativi, però disabilità e menomazione poi nella neurologia ci si scontra con un dato di fatto che sono abbastanza difficili da poter soppiantare, perché quando uno deve far capire come dire, la severità di una patologia comunque la si deve utilizzare, quindi si cerca di utilizzare per quanto è possibile dei termini che siano un po' più rispettosi e come dire, centrati sulle abilità lesive, anche perché noi da riabilitatori dobbiamo vedere ed esaltare quelle, non sottolineare ciò che al paziente manca, ma sottolineare ciò che al paziente può fare, è in grado di fare e come esaltarle queste funzioni. Per cui per quanto riguarda l'International Classification of Function, la classificazione internazionale delle funzioni, hanno raggruppato tutte come dire, le lesioni in tre grandi argomenti che possono essere la funzione d'organo che ha sostituito quella che era una menomazione, cioè per menomazione si intende proprio qualcosa di segmentale, cioè mancanza di flesso e estensione del polso, deficit di reclutamento del bicipite, cosa me ne faccio di un bicipite in sé? Quello è una funzione, funzionamento della respirazione, svuotamento della vescica, cioè comunque non l'andare in bagno, ok? Che è una cosa diversa, implica il raggruppamento di più funzioni e un'abilità, non il prendere un telefonino, questa è una funzione, capito? Muovere il bicipite e una menomazione, proprio è una funzione d'organo semplicemente, no? Questa qui invece è un'abilità, scusate, non è una funzione, ma è un'abilità, quindi saper prendere il telefonino o meno rientra nel campo della abilità o disabilità, ok? Camminare è una funzione complessa perché implica il muovere più muscoli, organizzare il movimento di questi muscoli, decidere dove voler andare e iniziare il salto volontario, capito? Perché non è che uno viene a muovere, cioè bisogna di una volontà, quindi qualcosa di un po' più complesso, fa parte di una funzione. E poi ci sta la partecipazione, quindi tre grandi domini, menomazione, come si chiama una volta, o funzione d'organo, disabilità barra abilità, come meglio si dovrebbe chiamare, la terza è partecipazione o funzione sociale, ok? Quindi la mia qualità della vita è fondamentale, no, per il paziente, perché come dire, tutto si misura e parte da quello. Io, cioè, l'abilità è vista, come dire, non c'è una scala precisa per vederlo, è sempre in relazione al paziente quello che desidera fare. Cioè, se io sono uno sciatore alpino e lui è un informatore, un programmatore informatico, comunque l'utilizzo di la restrizione di mobilità di 5 gradi della tibiotassica daremo un peso diverso, perché io non lavoro più, non ho più hobby e incide tanto sulla mia qualità della vita. A lui, un programmatore informatico, potrebbe incidere un po' meno, per cui la partecipazione è importante, quindi insomma calare il paziente nella realtà. Quindi questo è il punto di incidenza, poi ve ne scontrerete nella vostra vita e nella vostra carriera è andato da una decina, quindicina d'anni, fa fatica a prendere comunque piede, infatti si parla sempre di disoccupazione, di disabilità, ma va bene, insomma è difficile anche parlare, cioè sono cantabile totalmente, quello che è come scomparso, come termine, che è veramente preistorico, è handicap, no? Quello che ormai neanche più voi, che non lo dite, no, per riferirvi cioè neanche più voi, è ormai diventato un'accezione offensiva e non una descrizione di una mancanza di abilità. Vi è un po' chiara questa cosa? Poi la vedremo meglio nell'altro corso, vi parlo un po' meglio di questa cosa. Del treadmill, quindi del tapirulan, con lo sgravio del peso l'abbiamo affrontato l'altra volta, se non erro, giusto? Vi ricordate qualcosa? Ricordiamoci questi punti chiari, così dopo anche non dovrete neanche, come dire, impazzire per studiarvi quel materiale che vi do, perché tanto 4-5 sono le domande che vi faccio. Se le sapete, se non le sapete, no. Abbiamo detto principi fondamentali che sottendono la creazione di queste macchine. Della riabilitazione, quali sono? Sgravio del peso. Ok, questo qui è un po' il principio, cioè diciamo che la caratteristica che ha detto lui, cioè lo sgravio del peso è un po' la condizio sine qua non, cioè è importante perché stiamo parlando di terapia della deambulazione, però in generale tutta la terapia robotica, anche quella lì dell'arto superiore, quali sono i tre principi su cui avevo posto l'attenzione che sono alla base di precocità. La precocità del cambio. Ok, intensità e compito specificità, sono questi tre. Ok? Proprio a memoria, come il numero del vostro cellulare. Precocità, intensità. Intensità e compito specificità. Che cosa vuol dire precocità? Il prima possibile, basta che non facciamo danni, ok? E questo per danni si intende all'apparato cardiocircolatorio, date delle stabilità mediche si può iniziare la riabilitazione. Secondo principio? Intensità. Intensità. Ovvero posso fare un numero di ripetizioni maggiori rispetto a quelle che potrei fare senza così. Esatto, quindi riuscire a fare un numero adeguato, no? Cioè adeguato, che cioè cosa vuol dire questo adeguato? Anche prima poteva essere adeguato, però cioè, un po' di più di quello che si fa adesso, ma non più ne faccio meglio è, perché abbiamo visto e detto che la neuroplasticità è anche negativa, cioè, però sicuramente di più bisogna farne, soprattutto per alcuni tipi di funzione difficilmente allenabili e in determinate condizioni di pazienti. Compito specificità. Qual era la compito specificità? Devo allenare e fare la presa. Lo devo far fare. Insomma, compiere il gesto da allenare nel modo proprio più specifico, fare la riabilitazione nel modo più vicino a quello che è il compito che voglio riallenare. Cioè, passando quasi per un ideale che è proprio rifare il gesto completo. Se il paziente non lo fa e il terapista non ci riesce ad assisterlo in questo compito, ci proviamo a servire di quello che la palestra, l'economia politica e le tecnologie ci offrono. Ecco appunto gli ausili robotici. Avevamo detto una terapia riabilitativa che è stata teorizzata intorno a queste teorie, che era il Motor Learning Program, care Shepard e due terapisti. Poi avevamo fatto vedere qualche strumento che, come dire, va nella rema, nella corrente di questo modo di pensare, di questo tipo di fisioterapia, e avevamo evidenziato la CINT, giusto? La SEF, stimolazione elettrica funzionale, e i dispositivi elettromeccanici, ce n'è un altro ma non mi ricordo, biofeedback anche, no? Ok, abbiamo parlato poi del Bodyweight Supported Treadmill Training, il BWSTT. E che cosa avevamo detto di questo qua? Non mi ricordo qui. Questo qua, per immagini in Germania, la Germania federale, anzi no, DDR, da dove si erano usate queste ricerche, la cosa più importante è lo scarico del peso. La cosa più importante è lo scarico del peso? La cosa negativa era che purtroppo c'era bisogno di un'assistenza positiva e fissa. Ok, però anche qui ci permette di fare una terapia, come dire, aumentata dell'intensità, perché se questo paziente sul suolo farebbe, mettiamo, 150 passi e poi richiederebbe comunque un'assistenza del terapista per non cadere, qua ne può fare anche fino a 1000-1500 passi se è allenato, non è che lo stiamo impegnando dal punto di vista cardiovascolare, perché considerate che il tapirulat va a una velocità, non è che va alla velocità in cui voi fate il tapirulat, va lento, lui è sgravato del peso, per cui quello che gli togli di peso che deve spostare lo fa di più in passi e quindi facilita tutte le strutture osteomuscolari interessate nel cammino e, come dire, stimola i famosi pattern generatori della, motrici, della locomozione. Poi avevamo detto delle altre caratteristiche, avevamo detto che tipo già 12 sono efficaci, inclinare il passo, inclinare il tapirulare si immobilizza il passo, avevamo detto che sì, ci volevano due fisioterapisti. Che farlo a una velocità, cioè è vero che va lento rispetto a come lo fareste voi, però comunque lo si può fare un po' più veloce di quella che è la velocità di quel paziente sul suolo. Cioè avete presente com'è? Cioè quando uno analizza, e quello impareremo a farlo, ragazzi, il cammino di un paziente emiplegico, no? Oltre a dire autonomia sì e no, ausili sì no e quali, ortesi sì no e quali, bisogna poi passare alle caratteristiche qualitative che sono quelle cinematiche e cinetiche del passo, no? La prima cosa che salta agli occhi di un paziente emiparetico qual è? La velocità ridotta, cioè cammina a una velocità molto ridotta rispetto a quello di un parietà. Poi è asimmetrico, cioè da un lato fa un passo, dall'altra parte fa un passo più corto. Okay. Poi ci possono stare i compensi, la circonduzione d'anca, la sopraelevazione del bacino mediante il quadrato dei lombi, la triplice spasticità col piede cadente, cioè tanti piccoli dettagli che vanno descritti di paziente in paziente. Quindi al tapirulat, nonostante si vada comunque lenti rispetto al parietà, però si riesce ad andare molto più veloci rispetto al suolo, anche perché qui sia il fisioterapista che il paziente si permettono un pochino di osare, visto che comunque è in sicurezza, il paziente è imbracato. Ok? Per quello, insomma, allenarlo a una velocità maggiore, questi autori dicevano is more effective, è più effettivo, è più efficace, proprio funziona di più. Questo rientra sempre, c'ha come presupposto neurofisiologico il fatto che facendo più vicino alla realtà, quindi al cammino vero, può essere più efficace. E poi, anche perché determinati gesti, cioè se c'è un caso, anche voi, no? Nella nostra motricità abituale, se li facciamo a una velocità un po' più sostenuta, sono quasi, hanno un, c'è un risparmio energetico e vengono meglio. Tipo se io mi devo alzare dalla sedia, se lo devo fare a come camminare, lo devo fare al rallentatore, mi impegna di più in termini di linearità del movimento, costo energetico, impegno muscolare, piuttosto che farlo a una velocità normale o cioè sostenuta, ecco, proprio perché la deambulazione non è un insieme di movimenti di muscoli, è anche, come dire, una perfezione di conservazione e recupero di energia potenziale, ok? E quindi affinché debba avvenire tutto questo recupero di energia potenziale bisogna comunque andare a una certa velocità. Se voi fate il passo al rallentatore le energie che vi spendete sono assurde, fate quattro passi e state stanchi, ok? Comunque poi hanno fatto nel mondo nel 2005 una meta-analisi, questo simboletto, questo cerchio che vedo azzurro è il simbolo sempre delle meta-analisi, cioè siamo le Cochrane e questi revisori Cochrane sono praticamente persone che gratuitamente offrono di fare queste revisioni, chiaramente hanno le pubblicazioni come vantaggio, mettono assieme tutti i lavori che hanno parlato di questa metodica e lo hanno paragonato alla metodica convenzionale e non trovavano, se non in determinati casi selezionati, un oggettivo vantaggio. La spiegazione che si erano dati era comunque questo treadmill, d'accordo che aumenta la possibilità di fare degli esercizi in più, però in larga parte per il fatto che ce ne servono due di terapisti e nessuno ce li ha a disposizione, non è che cambia la situazione più di tanto, perché chiaramente se non hai due pazienti hai un po' le mani legate, no? Per cui si sono orientati nel mondo a costruire un pochettino questi aggeggi che assistono un poco di più il paziente. E adesso li vediamo, ho visto questo manipolatore pelvico, il Lopez, adesso parliamo un pochettino di più del Gettrainer, che è quello lì che sta a Santa Lucia, che sta al primo, al terzo, al sesto piano. Abbiamo detto che c'è il tapirula con lo sgravio, sta al secondo, c'è l'alta formisano, con i traumi cranici. Poi c'è il Locomat, che in futuro dovrebbe arrivare dal dottor Molinari, per un progetto europeo che è un po' più sofisticato, lo vedremo dopo. In realtà avevamo già dato degli indizi, no? Il Gettrainer è un dispositivo elettromeccanico, il Locomat è un vero e proprio robot, anche se tutti chiamano anche il Gettrainer robot. Io ve la do perché insomma, per fare le cose precise, però proprio in una definizione proprio, cioè se voi, io mando un lavoro a una rivista italiana e dico il robot Gettrainer, poi me la lasciano passare. Se la mando a una rivista internazionale fatta bene, dovevano farlo passare, dicono guarda che è un dispositivo elettromeccanico, e hanno ragione, perché abbiamo visto la differenza tra il dispositivo elettromeccanico e il robot, insomma c'è la differenza proprio del circuito di intelligenza a bordo, che è in grado di riadattare i parametri che tu hai selezionato in relazione alle diverse risposte, non inter paziente ma intra paziente, cioè all'interno dello stesso paziente passo dopo passo, ok? Tra un paziente e l'altro li posso selezionare anche io, quindi non mi servirebbe. Allora, ok, che cosa fa? È in grado di fare, di effettuare la riabilitazione della deambulazione nei pazienti con problemi di mobilità a causa di ictus, di traumi cerebrali, malattie degenerative quali Parkinson e danni alle articolazioni. Lo hanno provato anche sull'ortopedico, però sull'ortopedico vedremo bene che non è il massimo della vita, proprio perché non sappiamo, non abbiamo la precisione dei movimenti, il controllo della cinematica è una cosa che manca in questo aggeggio. Che cosa ha? Ha un controllo orizzontale e verticale del baricentro. Che vuol dire? Sapete che il baricentro durante la deambulazione normale che cosa fa? Oscilla lateralmente e anche verticalmente. Verticalmente, perfetto. Cosa fa? Costruisce una sinusoide proprio, no? Così. E la cui escursione di quant'è? 4 cm, più 2 cm sopra, meno 2 cm sopra. Diamo dei valori che sono un po' la norma, però chiaramente dipende dall'altezza, dalla lunghezza del passo, perché se io faccio un passo più lungo mi abbasso molto di più come baricentro, se faccio il passo più corto, se sono alto 1,90 m, chiaramente l'escursione è molto maggiore, dipende da tanto, però diciamo più o meno 2 cm. Questa macchina riproduce questo meccanismo. Manca il controllo della cinematica, cioè delle articolazioni, quanti gradi si piegano, capito? Quindi in maniera sincrona con il passo, questa fune che regge comunque il meccanismo di supporto del peso qui, a prescindere da, cioè fa un pochettino su e giù, sincrone con le fasi del passo che decidono le pedane. Quindi ok, prima cosa di importante, vedete un tapirulà qua? No, non ha tapirulà. Ci sono delle pedane che mobilizzano da sotto il passo. Considerazioni riabilitative? lì c'è da vedere, cioè non è che segue perfettamente l'inclinazione della bibliotasi. No, quella è modulare. Non è una macchina che nasce per il perfezionismo del. Quando il paziente poi ti cammina sul suolo, il terapista ci lavora sul perfezionamento del passo. Qua serve a fare il training della deambulazione in pazienti che starebbero a letto a non fare niente, capito? Quindi non andare per il sottile. Questa è una cosa vera. Guardiamo le cose, che grosso qua mancano dei pezzi, poi mancano interi muri di una casa. Tu stai guardando che manca la scrivania, capito? Per quello ti faccio fare, è vero quello che dici, ma è un dettaglio, insomma, guardiamo le cose. Ma io l'ho appuntato perché non sapendo potrebbe regalare al paziente sempre che sempre questa parte. Esatto, infatti noi i criteri di inclusione e di esclusione, cioè chi può fare questa macchina, ancora non l'abbiamo detto, lo diremo. È chiaro che essendo vincolata la macchina, no? Una cinetica, una catena cinetica per la deambulazione chiusa, potremmo identificarla, no? Ok? Essendo quindi vincolata, noi dovremmo far fronte, cioè questi vincoli ci aiutano se il paziente non può fare, però sono anche dannosi nella misura in cui ci possono arrecare dei danni ai pazienti, no? Cioè, dare un vincolo a un qualcosa che si muove vuol dire assecondarlo o far scaricare su quel segmento tutta la forza di una mobilizzazione, quindi bisogna comunque, è un gioco, no? Cioè, accetto vincolare il mio paziente, ma accetto anche di rischiare che se non ci ho messo il paziente giusto gli posso far male, ma non succede niente, basta che uno, ci sono quattro i pazienti che non ci possono mandare su quel gridio e basta osservarli e è finito, insomma, non succede niente. Però pensate a com'è il passo normale, naturale, e pensate a questa macchina, no? Il paziente viene messo lì, leggo con il velcro i piedi, lo imbrago, quindi lo sospendo, lui mette le mani così, magari c'è l'altoparetico, quindi glielo leggo, e la macchina inizia a muovere. E lui, in maniera sincrona con il passo, quando la pedana sta giù, il terapista gli dice tirati su quel ginocchio, attiva questo, adesso attiva questo, adesso attiva questo, adesso attiva questo, ok? Quindi lui partecipa attivamente. Partecipa attivamente e deve essere sincrono, quindi deve capire il compito. Non vale essere appesi come un salame e la macchina va, lo puoi anche fare per riattivare qualcosa. La macchina va per conto suo, o aspetta che non è un robot, questa è la risposta, non è un robot, è un dispositivo elettromeccanico. Sei tu terapista, cioè però guardate, non è, cioè per il mio modo di vedere, cioè chi lo compra ancora non ha ben capito a che cosa serve, e chi lo interpreta non si è mai sforzato di capire a che cosa serve, perché è importantissimo identificare il paziente, e il fatto che la macchina non pensa, io me lo posso giocare a mio favore, io fisioterapista, perché penso io per lei, no? Perché deve pensare lei? Sono io il fisioterapista, io devo pensare, quindi ci sono le manopole, la aziono io quando vedo che il terapista, quando vedo che il paziente sta partecipando, modifico i parametri in base a come vedo lui, cioè la finalità e l'obiettivo del trattamento lo sceglie l'equip, il modo in cui io voglio raggiungere questo equip lo scegliete voi, ok? Io posso suggerire fai che treni, poi il terapista quando si mette lì i parametri, in quel decidere i parametri è lì che si gioca tutta la partita dell'efficacia della riabilitazione, ok? Perché io posso decidere di appenderlo tanto e farlo trascinare come un salame, oppure settimana per settimana, giorno per giorno, durante la seduta, stimolarlo a partecipare, e lui partecipa tanto, gli sto facendo un buon tipo di esercizio, ok? Allora, stiamo parlando poi i dettagli di come avviene il trattamento, come si mette il paziente, lo vedremo poi nella lezione pratica, insomma un giorno. Prossima lezione ce la facciamo su, venite su e ci, insomma, ognuno, qualche volontario si mette e vediamo un pochettino come funziona. Però vi voglio far vedere, essendo una macchina che assiste, ok, i pazienti proprio alla deambulazione, i pazienti che non ce l'hanno proprio la deambulazione, no? Però c'ha dei punti di vantaggio, i punti di vantaggio sicuramente sono quelli che glielo permette di fare un esercizio di deambulazione quando non si può proprio fare. Questo è un grosso punto. il tapis roulant a me, ma come tutti noi, sembra un meccanismo più vicino alla realtà. Hai un suolo, invece di avanzare tipo il baricentro, lui che discorre sotto, però comunque tu elevi il passo e impatti il suolo. Vi ricordate quella figura con i due terapisti, uno che da dietro gli teneva il bacino, uno che andava davanti? Anche in termini di feedback propriocettivo, lì se la terapista chiaramente si deve spaccare la schiena, sta lì due ore, che noia, eccetera, però gli fa impattare il piede preciso, no? Sia se esso sia plegico, sia che esso possa fare qualcosa, comunque lo assiste, magari quello un po' muove, fa così, se ne va in adduzione, in triplice pressione, la terapista glielo prende, gli impasta prima il tallone e poi, no, lo aiuta forte. Qua avviene questo. Possiamo dire che in gran parte cos'è che manca totalmente, no? Come si compone il passo? Prima divisione del passo, quali sono le fasi del passo? Stenza e swing, appoggio e oscillazione. C'è qui la oscillazione? È assente. Non c'è una reale elevazione del piede dal piano di appoggio. È il piano di appoggio che si muove con esso, ok? Quindi proprio scientificamente non si attacca il piede da... Sì, è chiaro che io mi sto perdendo questa cosa. È un dramma, è un elemento da valutare, dipende dal paziente. Se il mio paziente è in grado di farsela da sola, già secondo me stiamo nel campo di quelli che dobbiamo valutare. Scusa, non volevo. Se fargli fare un'altra cosa. Cinta, lo sapete, non volevo fare una terapia ogni tanto di questo qui, perché. Scusa ancora. Pur perdendomi quell'aspetto proprio certivo, mi fa piacere che lui faccia mille passi e si attivi un poco dal punto di vista cardiovascolare e si riduca la stanchezza. Però l'importante è non essere ignoranti. Poi si può discutere su tutto, capito? Che cosa è utile, che cosa è meglio. Ci sono delle priorità, ok? Questa qui mi sembra una cosa importante. Quando tu mi dicevi non controllo bene la caviglia, io ti ho detto andiamo indietro, ci sta qualcosa ancora di più grave, cioè manca proprio l'oscillazione, la fase oscillante. Perché il paziente è legato dal velcro, quindi quando tira su, lui, diciamo, come dire, gliela tira sulla macchina, lui è già concentrato a attivare il quadricipite contro laterale per tirarsi su. Ok? E se non ce la fa in quel momento, cioè gli cede la gamba perché è un paziente, non è un sano, lui tenderebbe a cadere, non cade a terra, c'è il supporto del peso. In quel momento la macchina mi registra, io ho selezionato 20 di supporto del peso, 20 kg. In quel momento se il paziente non ce la fa perché perde il giro, perché si è affaticato, perché è un neurologico delle prime fasi, un passo te lo fa, il secondo non te lo fa più, per quello il terapista è costretto a stare tra le parallele per tanti giorni prima di iniziare a fare il passo, tra le parallele uno è protetto perché si ci mette vicino il terapista e lo piglia, no? Cioè l'insito del neurologico che non è che ieri, non è che il cammino spunta tutto di un giorno, ieri non ce la faceva, oggi cammino, è una cosa graduale fatta di percorsi ad ostacoli importanti. Quindi lui cede, la macchina lo supporta e lì io vedo, perché c'è un controller qui, questa macchina, che dopo lo vedremo, praticamente che fa? Controlla sopra il tempo, da quanto tempo è azionato, da quanto tempo sto facendo gli esercizi, ok? Qua conta il numero di passi, quindi tallone destro, non gli step, passi, ciclo intero. E considerate che quando uno fa la terapia, lì di quelli lì uno ne fa pure 500, 1000, insomma, quindi sono tanta roba. Questo qui invece è il controller dello sgravio del peso, che è in chilogrammi, cioè quanti chilogrammi sto supportando del paziente, ok? Abbiamo sempre parlato di percentuale, adesso si parla di chilogrammi, quindi bisogna fare sempre una piccola proporzione. Se il paziente pesa 80 kg, se là vedo 40 kg, lo sto scaricando del 50%, insomma, bisogna fare questa piccola proporzione sempre, ok? Poi ci sono queste funi laterali. Ci sono, abbiamo detto, stavo parlando del controllo della Poi la macchina mia è peggio dell'autobus. Del baricentro. Quindi controllo verticale. Ma c'è anche un controllo laterale, cioè ci sono queste due cinghie, come giustamente non so chi aveva parlato del baricentro, diceva prima di muoversi con un come una sinusoide sul piano verticale, sull'asse verticale si muove, oscilla anche di lato, no? Quando uno cammina, giusto? Il bacino. E anche qua c'è questa oscillazione che sincrona al movimento del passo. In particolare, quant'è che il bacino nel cammino normale se ne va a destra? Quando sto in appoggio monopodalico, adesso quando sto oscillando sull'altro arto, quindi io per liberare dal carico quest'arto sposto il peso sull'altra parte, no? E così fa questa macchina. Cioè, quando stiamo mettendo, quando il paziente deve mettere il peso sulla gamba destra, la macchina un pochettino lo tira di un centimetro, quel centimetro che basta per dare una migliore compito specificità alla deambulazione, cioè non si ci avvicina perché non è perfetta sta macchina, no? Però intanto ce l'ha anche quest'altra funzione e facilita soprattutto lo spostamento del carico, cioè il paziente non deve premerci sul pattino, no? Come se stesse facendo lo sci, quello lì. Cioè lui, la macchina lo tira su e lui naturalmente ci mette il peso. Vi ricordo che vi avevo detto anche l'altra volta del tapirulan. Qual è una componente importante che il terapista si ci ammazza nel paziente neurologico per è come un mulino al vento contro cui lotta. Qual è nei pazienti? Il fatto che il paziente neurologico alle parallele fugga il carico sull'arto paretico, ok? Il terapista si è detto mettici il carico, il trasferimento del carico, perché il paziente se no sta così, no? Lui lì si sente sicuro e la natura là gli dice di sta così. Però la riabilitazione è proprio il contrario, noi dobbiamo riabilitare, rieducare quella funzione, ma il primo passo è cercare di farlo capire anche al corpo. Questa macchina ci aiuta perché mentre il terapista alle parallele ci si deve ammazzare, un attimo si gira, quello torna così. Ok, non vi sto parlando di pazienti che hanno una Usher syndrome, la sindrome della spinta, vi sto parlando di pazienti normali. Capito? Esiste la sindrome della spinta? Non l'avete mai sentito parlare? E non è quello del vostro quartiere. Siamo così e basta. Allora, alla fine è nella argomenta questa celebrazione fantasiosa. Perché nella ciclette? Allora, c'è anche un altro dispositivo, non so se l'avete visto voi, sta al terzo piano, si chiama il Motomed. Ok? Però lo si mette con le braccia, con le gambe e fa qualcosa. Allora, io ti chiedo qual è la differenza tra questo e quello? Quello costa pure un quinto. Ah, hai detto poco? Tantissimo. La deambulazione si svolge sotto la gravità. La componente fondamentale. Sì, perché nonostante il paziente sia sorretto dalla caricatura, c'è comunque quella componente di forza. Poi rispetto a una sigletta, è fondamentale, rispetto a una sigletta, cosa ha di diverso? Ragazzi, rispetto a una sigletta, cosa ha di diverso? Io sono d'accordo che anche la sigletta è un meccanismo reciprocante di attivazione di pattern di flessori ed estensori. Flessori ed estensori. Cosa c'ha la sigletta rispetto a? C'è il sedile, e quello è assolutamente sì. Cioè vuol dire che io sto disattivando tutta la componente superiore, il passeggero, il, no? Cioè nella deambulazione il quadrato delle lombi, i paravertebrali si muovono o non si muovono? Ha voglia che si muovono, sono fondamentali, no? Come fai a tenerti il bacino in su senza attivare? Invece questa fase non esiste proprio nella sigletta, cioè. Diciamo, cioè, la cyclette sta alla deambulazione come una ruota sta alla macchina. La ruota, beh, lo so che è importante per la macchina, però con una ruota non hai fatto la macchina. Io non ti dico che qua abbiamo fatto la macchina, però qua stiamo con ruote, volante e freno a mano. È chiaro che ci manca la carrozzeria, i sedili e tutto. Scusate la... male, ragazzi. Capito quello che ti voglio dire io? Però è vero, no? Cioè, io il motometer, uno mi dice, perché uno dice funziona, dipende come al solito, no? Cioè non è che. È chiaro che alcune cose ce le ha e le allena anche, tipo che cosa allena? Allena appunto l'abitudine all'attivazione questi pattern automatici in pressione estensione. Ok. Allena l'aspetto cardiovascolare, come togli il paziente. 30 minuti, 40 minuti, quando se li fa? Sta allentato, sta. Quando se li fa quell'esercizio? Bellissimo. Torna a camminare il paziente. Non è quello che lo fa tornare a camminare a forza. Mettendo assieme due componenti. Per tornare a camminare ci serve il muscolo. Ragazze, il muscolo che si attiva, la coordinazione che c'è, il centro locomotore che c'è, il cuore e i polmoni che funzionano, l'equilibrio che c'è, la coscienza che c'è. E sono quelle che sappiamo, quante ce ne stanno ancora? Una cosa un po' più complessa, quelle ne allena 3-4, sistemo 3-4 cose, ma ancora mi manca tanto di fondamentale. Questa qua pure si perde molto, ma quantomeno c'ha i fondamentali, che sono l'esercizio che si svolge in gravità. Okay. La possibilità di fare questi pattern flessori ed estensori del lato inferiore sotto la gravità con il meccanismo dello sgravio in una discreta sicurezza. Ok, non devo mettere due terapisti lì a muovere il piede, ci sta la pedana. Quindi ha questo vantaggio rispetto a quell'altro che dicevamo, il tapirulano, che mi sembrava più corretto come meccanismo compito specifico per la deambulazione. Però mi sembrava più gravoso per i fisioterapisti. Quindi già, se voi ci fate caso, questa è una cosa che non è neanche ben chiara nel mondo. Sì, sono talmente recenti queste macchine che se lo stanno, cioè se lo stanno dicendo adesso, no? Però esiste una. Cioè tutta la riabilitazione adesso, oltre a diventare in futuro, come dicevo sempre io, un po' come il farmaco, cioè dosaggio, prescrizione, tutto, soprattutto deve essere. Si dice user-centered, cioè centrata sull'utilizzatore, capito? Cosa che finora non è stata, un po' perché per vantaggi commerciali, cioè dire che sta macchina serve nel paziente neurologico, dire che serve nel paziente neurologico che controlla il tronco ma che non attivato, cioè restringi il campo di azione, no? Ok? Cioè se io dico che funziona il neurologico, allora uno ha più vantaggi commerciali perché sarà. Però questa a me, ricercatore, a me clinico, identificare cosa, cioè rispetto a quello che io dipendo, costo della terapia, costo della macchina, impegno di un fisioterapista, a chi rivolgo questa risorsa? Io mi sono fatto l'esperienza che, come dire, Tavirulan e questo qui non sono macchine antitetiche, ma funzionano in momenti diversi nello stesso paziente, nell'arco del recupero e in pazienti diversi. Cioè, vi spiego. Ragazzi, un paziente che è molto grave, 15ª giornata, controlla il tronco ma non ha fatto ancora neanche un passo, i terapisti non riescono a metterlo in piedi perché appena gli si mette in piedi, crolla. Ok? Questa macchina potrebbe essere buona, lo imbraco, lui controlla il tronco, inizia a fare la fase della deambulazione, arriviamo a 3-4 settimane, inizia a fare qualche passetto al paziente, no? Lo fa, esce anche delle palle, qua dentro aiuto del terapista, lui fa qualche passetto, io a quel punto, ok, io lo metterei, passerei a un minor livello di vincolo, ok? Catena cinetica giusta, però comunque lo sgravio del peso ce l'ho, cioè si fa la mattina l'allenamento con il terapista che poi li fa sentire la qualità del passo come quella rossa blu e il pomeriggio si fa 20 minuti da più largo, così si allena la rivelità, una maggiore simmetria, un impegno cardiovascolare maggiore, avete capito? Per quello, se vuoi identificare una sorta di continuum, quindi è importante identificare il tipo di paziente, un po' molto. Cioè, con questo io non vi voglio dire che il tapirulan con lo sgradio del peso serve per i pazienti non tanto gravi. Io dico che si può utilizzare in tutti, ma se chiaramente ci metto alla legge che è al secondo piano un paziente che è praticamente emiplegico, ci devo mettere anche un paio di persone vicino ad assistere questa deambulazione. Se io non voglio correre rischi, fare un... no, a parte che, cioè, un paziente totalmente plegico, cioè, trascina la gamba, poi non se la ritira su e la gamba sta là così, capito? Cioè, non è che, cioè, chi è che gliela attiva? Altra cosa è il locomat. Il locomat, sapete cos'è il locomat? Non l'avete mai visto? Questa è Gina, Laura Gina. Vedete, questa è per farvi vedere un po' che è una vostra collega di anni, di 2 anni precedenti che ha fatto la tesi. Sono la mia prima tesista. L'anno scortina. Questa, vedete un po', queste sono le macchie, un pochettino le pedane. Non sono pedane che si, cioè si ha, qua ci sta il motore della macchina. E queste qua sono praticamente dei rulli che girano percorrendo un percorso ellissoidale, ok? Praticamente simulano la fase del passo, fanno così, così, così. Però un'altra caratteristica di questa macchina è che, essendo quando le pedane o stanno così o stanno così, no? Così fanno praticamente, non esiste la fase, perché anche noi all'interno, cioè sono due compiti diversi, il mantenimento dell'equilibrio sotto la gravità a piedi uniti, così, questo è un compito dal punto di vista funzionale, e la deambulazione è un altro, sono due meccanismi completamente diversi, no? Questa macchina, è chiaro che nella deambulazione il primo è propedeutico al secondo, se c'è la deambulazione io un attimo devo capire, cioè per nella mobilità sono richiesti tutti e due, non è che io parto e poi non mi posso fermare, o se sto fermo poi non posso partire. Questa macchina però non ha il double stance, cioè non ha la stazione eretta a piedi uniti, ok? Come nel tapirulan, no? Prima di partire io sto fermo così, poi aziono la macchina e inizio il passo. Che però è singolare, perché per i Parkinsoni spesso stanno in piedi ma non iniziano, il problema di accendere la deambulazione. Questo promuove un livello superiore di approfondimento. E per cui il paziente, quando io lo metto, prima di farlo partire, o sta così, o sta così, quindi col carico spostato da una parte o da un'altra. Io ci devo allenare il paziente emiparetico, come lo mettete voi? Iniziamo col carico. Esatto, non parto dalla posizione più complicata, cioè metto la pedana stesa a terra, quella lì sana, quello paretico parte così, la cinghia gliela tiro un po' più di qua, così gli sposto il carico e poi dopo azione la mano. Quindi questo è per farvi vedere come la catena cinetica sia chiusa. Caratteristiche fondamentali, qua c'è la sospensione del carico, il tapirulan e l'esoscheletro. Quindi qua mischia un po' le carte. Beh, è migliore, no? Questo è migliore, assolutamente sì, però è anche un robot. Però, cioè, il migliore secondo me va valutato anche in base ai costi, questo costa 300.000 euro, quello di prima costa 50, cioè ce ne compri 6, e addirittura dello sgravio del peso col tapirulan ne compri 15 rispetto a questi qua, no? Quindi il costo è importante. Che cosa c'ha? Questo tapirulan scorre tutto sincronizzato da un software, ok? C'ha queste barre laterali e c'ha il motore a livello dell'anca e del ginocchio. La tibia tarsica è tirata su da delle molle, quindi motore. Che vuol dire adesso allora la motricità? A quello di prima è un meccanismo end effector working assistive device, cioè ragazzi, da dentro c'era il motore, l'ellissi e la pedana si muoveva, ok? Questo si chiama esoscheletro. Che vuol dire esoscheletro? Scheletro che sta fuori, chi ce l'ha l'esoscheletro? Gli invertebrati, no? Cioè, vuol dire che fuori ci sta qualcosa che supporta come meccanica l'osso che sta dentro. Quindi questo fuori provvede alla motricità. Io, fisioterapista, decido quando devo prendere l'anca e lui, il robot, congiunto, avvicinerà questi due segmenti. Ok? Farà lo stesso anche con quello di sotto. Quindi farà così. Imposto questo pattern di cammino, uguale, lo farà preciso. Il tapirulan mi scorre sotto. Ok? Non solo. È un robot. Quindi non è che lo posso impostare in modalità totalmente assistiva, cioè il paziente è plegico, non muove niente e io mi metto lì e lui fa, oppure lo posso impostare in modalità semi-assistiva, cioè il paziente inizia, non ci riesce, lui completa, però l'esercizio lo faccio sempre bene, capito? C'è la regolazione fine dell'interazione uomo-macchina. Cioè, fa esattamente quello, che qualcosa che non riesco a fare. È complicato. Chi ce lo mette qua sopra? No, vabbè, poi chi decide di parlare? Non abbiamo visto, ma sempre supervisionato, cioè è sostituito, però. Esatto, però il concetto è che poi qui altre caratteristiche, poi dopo la prossima lezione lo faccio vedere meglio. C'è un parallelepipedo dietro che è una barra stabilizzatrice di tutta la schiena dorsale. Quindi qua ci possono mettere proprio persone che non hanno almeno lesi alti, che non hanno proprio il controllo del tronco. Se voi mettete una paziente che non ha il controllo del tronco al get trainer, si accascia così, cioè si mette così e le pedane si muovono e fate solo danni, perché a quel punto le pedane impongono a anca, ginocchio e tibiotarsica una cinematica che potrebbe essere dannosa, perché il paziente magari sta troppo in valvo in varo, ok? E quindi se tu cerchi di fare una pressoestensione con il ginocchio in varo, che fa? Mi si spacca il collaterale laterale, capito? Quindi comunque è importante vedere il tipo di paziente. Questo qui ce lo può fare un paziente che è ancora più grave rispetto al gate trainer, no? Quindi una sorta di scaletta, tapirulan, gate trainer, locomarch. No, arriverà. Però questo qui vi vincola ancora di più, perché il paziente proprio sta vincolato al lato inferiore, capito? Quindi se da un lato vi permette un esercizio meglio fatto in pazienti molto gravi, d'altra parte se voi volete giocare un pochettino con una maggiore libertà perché pensate che il paziente è in grado di farlo, e se può farlo lui perché deve tenere vincoli, con questo lo potete fare un po' meno. facciamo 5 minuti di pausa e dopo vi dico le ultime cose del game trailer, va bene? Ok. E 20. Allora, guardate quello che sta dicendo, che è un costruttore che si chiama S, il tedesco. Non è Vanessa, no. Stefanes, si chiama lui, dice dispositivo elettromeccanico per la pratica ripetitiva di movimenti simili al cammino senza sovraccaricare i terapisti. No? Ci ho messo anche il giudizio per poterlo vendere di più. Quindi diciamo, vabbè, mi fa fatica, lo compro. Però lui in una cosa è preciso, eh. Uno l'ha chiamato robot, siamo noi che lo chiamiamo robot, sbagliando. Due, lui non ha detto che lo fa camminare. Cioè non è che ha detto che fa il cammino, come tu dicevi, ma la caviglia non si muove bene. Lui lo sa che non è la deambulazione fatta bene, ma perdonatemi, neanche quando il fisioterapista da solo fa il training a un emiparetico non è la deambulazione perfetta. Perché lì il paziente ci conduce, poi possiamo discutere se è peggio quella o è peggio questa che manca l'oscillazione. La risposta mia è dipende dalla menomazione del paziente, sempre questa, sempre su questa cosa. Io insisterò sulla robotica ed è la cosa che mi ha portato anche a fare una pubblicazione molto importante, è identificare il paziente è fondamentale per capire se funziona o no e decidere se ci può aiutare o meno. Quindi lui stesso parla in inglese, si chiama walking like, cammino simile. Quindi è un esercizio del cammino? Tra noi diciamo sì, per non complicarci la vita, ma se dobbiamo scrivere qualcosa di scientifico, essere precisi, è un esercizio cammino simile, ma non è proprio il cammino. Permette un esercizio fisico intenso, circa 100 steps a seduta, tasto oriente, 1000 steps, i steps sono gli passi, 500 passi. 500 passi in un paziente che è allettato ed emiplegico o emiparetico grave sono è tanta roba. Permette un esercizio precoce nei pazienti non deambulanti, ecco qui che risaltano i principi del motor relearning program. E qua occorre un solo terapista rispetto al bimbo STT, cioè mentre prima ce ne volevano due, qua un terapista molto addestrato, anche se noi, per dire, nella nostra esperienza, quando il paziente è veramente molto grave, i due terapisti, soprattutto nella fase di messa in sicurezza, cioè di montaggio e smontaggio, ce ne vogliono due di fisioterapisti, perché è un pochettino pericoloso, non pericolosa, però cioè il paziente sta sospeso, magari se dipende da quanto è grave la stazza del paziente, cioè comunque è consigliabile che si aiutino i terapisti, no? Poi dopo, una volta azionato il macchinario, il terapista ne serve uno solo, ok? Ah, questo bello, l'ho un po' già visto, sto facendo un miscuglio di varie presentazioni. Un'altra cosa che è prevista nel game trainer, noi non l'abbiamo quasi mai utilizzata se non per prova, perché aggiungerebbe laboriosità e ingegno comunque ai terapisti che già fanno fatica a entrare, cioè comunque bisogna metterlo, imbracarlo, cioè c'è comunque un dispendio e un'iniziativa maggiore da parte del terapista piuttosto che mettere il paziente a letto e insomma fargli semplicemente la riabilitazione assistita o farlo stare le parallele. Quindi un pochettino mi rendo conto che i fisioterapisti lavorano quando devono fare la terapia al game trainer, cioè perché non la puoi fare oltre alla componente magari non sono convinto della sua efficacia, io aggiungerei anche un'altra componente di fatico, mi faccio un pochettino il mazzo di più rispetto a una terapia normale, per quello io, cioè chiaramente non sono io a decidere le forze del Santa Lucia e dei fisioterapisti, no? Però se uno dovesse fare questa terapia fatta bene, io dedicherei due fisioterapisti, così se cresce la volontà di fare il fisioterapista, no? È chiaro che se io che so fare il fisioterapista, il game trainer, mi devo comunque stancare molto di più di un altro che non lo fa, la ragione è perché dovrei essere quello che fa, cioè dovrebbero esistere i mappi, cioè basta identificare meglio chi si può aiutare. e la cosa può andare, no? Allora, per quanto riguarda il trainer, questo lo dice l'ENPU, cioè il foglio proprio informativo del... Chiaramente ci vuole il medico responsabile del progetto che deve identificare e indirizzare, no, l'equipe verso l'utilizzo della macchina. Ci vuole la valutazione del singolo caso. Il paziente deve essere in grado di capire il compito e quello che andrà a fare, e ci vuole una sufficiente stabilità del controllo del tronco. Ok? Quali sono le controindicazioni, ragazzi, che sono importantissime? Farò parte di quelle 5 domande che vi farò, quindi mi sono imparato la memoria. Infarto miocardico, ma come pregresso o in corso? In corso no, perché non starebbe andando in pronto soccorso. Recente? No, ma se ce l'ho avuto 2 anni fa ed è stabile, ma... anzi è meglio, lo scarico, lavora di meno, forse è l'unico modo, no? Cioè, molte persone diciamo hanno avuto un infarto in passato, non è che gli fa male, no, anzi gli fa bene, perché gli fa peggio se lui deve far sul suolo a stancarsi con tutto il suo peso. Se lo fa lì, pesa anche di meno, quindi può essere propedeutico, no? Infatti quando noi facciamo i corsi e viene a parlare sul Pizzi, che è il cardiologo, che lo invito sempre, lui fa sempre una bella comunque presentazione, cioè i cardiologi sono d'accordissimo, perché come vi dicevo l'altra volta, per non fargli avere un secondo ictus a un paziente, comunque lui si deve muovere, perché cosa gli è venuto? Per la pressione arteriosa, per la glicemia, per il colesterolo, quindi dopo lo immobilizzo, sta 40 giorni fermo, gli viene ancora di più l'ipertensione, il colesterolo, la glicemia alta, perché sono tutte cose contrastate dal movimento, quindi al cardiologo non gli può far che bene una cosa così. E lui è contento, infatti. Noi diciamo, ma quando è, ce l'avete queste macchine, quando è che noi le usiamo? Siamo in un centro così. La trombosi femorale, perché chiaramente quando è in atto una trombosi femorale è controindicato ogni sorta di mobilizzazione, da quella passiva, attiva, assistita, cioè non si fa riabilitazione, non si mobilizza quel segmento, per il rischio di mandare in circolo un frammento che possa poi dare un'embolia polmonare tramite il circolo venoso. Atrio destro, ventricolo destro, circolazione polmonare, embolia polmonare. Embolia polmonare appunto negli ultimi 3 mesi, perché se ne ha avuto una non voglio farvi affaticare il sistema cardiorespiratorio, con questo che ne abbia un'altra. Spasticità maggiore di grado 3 ASCII o tasso inferiore, perché c'è secondo voi questa cosa qua? Perché comunque una spasticità maggiore del grado 3 vuol dire una difficoltà nella mobilizzazione dei segmenti, e rientriamo in quel problema della cinematica, essendo vincolata la macchina, se io mobilizzo dei segmenti che hanno già un vincolo, rischio di far danno, no? Cioè se io e voi sapete che la spasticità è velocità dipendente, cioè se io la mobilizzo da solo faccio fatica, figuriamoci se le pedane vanno un po' più veloce, quello si rigidisce da subito, rischio di rompere il legamento. Che faccio in quei pazienti? Tanto prima la spasticità con i farmaci e poi lo metto in treno. Tossina botulinica, baclofen, quello che sia. Presenza di contratture e fratture, per la stessa cosa, in generale, vi dico, qua non c'è scritto, ma aggiungetelo voi a penna nei vostri appunti, una restrizione di articolarità maggiore del 20-30%, controindica l'utilizzo del trainer. Ok? Se per dire l'anca fin qua non va perché è bloccata nell'estensione, beh, io non lo metterei al trainer, perché la pedana va indietro e gli forza l'estensione, quindi o si trascina tutto il paziente, ma se è vincolato rischio di infiammare l'anca. Se si è fratturato il perone e non tira sulla caviglia, là passivamente comunque viene tirata su a un certo punto, oppure se c'ha una spasticità talmente grave che c'ha il piede, ragazze, equinovaro supinato, ok, vedete presente com'è, cioè se il tendine d'Achille tira non causa solo una flessione plantare, ti dirà più così, quindi chiamo, insomma, oppure se c'è una spasticità del tibiale posteriore, che è il muscolo cavizzante del piede, il piede si metterà in equilovaro spinato un pochettino. In genere sono combinate le due cose, la retrazione del tendine d'Achille e del tibiale posteriore, quindi il piede è sempre così più o meno. Là devo fare attenzione, perché devo vedere se questo piede è una spasticità riducibile oppure no. Cioè, se è riducibile, è che poi è la vera spasticità, perché se non è riducibile non è spasticità, è più attiva la componente della fibrosi tendine, quindi della retrazione. In questo secondo caso, cioè fibrosi tendine, retrazione, non riducibilità, lì devo fare attenzione col hip trainer, perché posso andare a forzare questi elementi troppo stabili. Però la domanda è questa, me la fanno sempre quando facciamo i corsi i vostri colleghi adulti, non che voi non siete, cioè l'ultima esperienza, scusatemi, che lavorano già da tanti anni, è quello, si preoccupano, ma se il paziente non controlla il tronco, nella verticalità non gli sale, non gli aumenta la spasticità? La domanda è no, nel senso che nel mentre in cui io lo piazzo, lui sospeso, la spasticità gli aumenta, un pochettino lì gli aumenta, no? Perché comunque è la verticalità, cioè qualsiasi paziente sdraiato sta così, come inizia a camminare poi gli viene la spasticità, no? Cioè sono le reazioni di raddrizzamento che la causano, però quei 20 minuti, cioè è più importante tra gli effetti positivi il fatto che io sto muovendo gli arti, piuttosto quello che in quel momento un pochettino gli faccio aumentare la spasticità. Perché poi il primo fattore per far venire la spasticità è l'immobilità. Non so se sono stato chiaro. Va bene, io non vado la spasticità. Questo è assodato. E questo è più importante del fatto che mentre gli faccio la spasticità, questo trattamento, purtroppo un pochettino in quel momento gli aumenta la spasticità, ma solo all'arto superiore, neanche all'arto inferiore, perché all'arto inferiore, non essendoci quella fase oscillante, okay, il lessurale non se ne va in crono, è assistito, cioè quel fatto che prima giudicavamo come negativo la mancanza di un'oscillazione, in questo caso ci viene anche d'aiuto, perché non dovendo noi forzare troppo la fase di oscillazione non se ne va in spasticità. Capito? Comunque questa macchina non serve a ridurre la spasticità, vi dico semplicemente nella nostra esperienza e nell'esperienza di tutti quelli nel mondo che l'hanno utilizzata, la spasticità non si modifica, cioè non è né meglio e né peggio, così è, così rimane. Però io lo dico perché è il problema che tutti le persone che hanno una formazione solo ed esclusivamente Bobat e soprattutto solo ed esclusivamente Bobat di un po' di anni vedono il diavolo in questa cosa, perché il paziente non si può, secondo loro, mettere in piedi fin quando non ha controllato i riflessi primitivi, e per loro la reazione di addrizzamento è un riflesso primitivo, ok? Non è compito mio, non vi dico cosa è meglio, cosa è peggio, dovete avere più elementi. Io dico che adesso, cioè, bisogna organizzarsi, nel senso far stare una persona di 60 anni con 40 giorni a letto. Vido. Tra un po' si entrerà nel penale, capito? Cioè, non è una cosa così vantaggiosa, capito? Avete capito? Poi sono d'accordo che gli americani esagerano, loro dicono vabbè c'ha 12 terapie a disposizione, lo mandiamo a casa, ok? Con 12 terapie non ci fai niente, ma ormai è anche una questione di non solo di persone che recuperano di più a deambulare, ma anche tra quelli che ce la fanno con le metodiche convenzionali e basta, ci vuole un tempo molto maggiore. Questa questione del tempo molto maggiore diventa fondamentale in un momento in cui non ci stanno soldi. Cioè, prima, se voi parlate con i colleghi un pochettino più avanti d'età, tanto, quelli più anziani, diciamo, vicino alla pensione, vi dicono, quando lavoravo io 25 anni fa e c'era l'altra struttura del Santa Lucia, lo Stato ci faceva tenere gli stroke 6 mesi, allora sì che si lavorava bene. Concetto valido da un lato e non valido da un altro. Nel senso, è vero, la riabilitazione convenzionale, per riabilitazione convenzionale intendo sempre le terapie del neurosviluppo, richiedono un po' di tempo maggiore per arrivare a un tipo di deregolazione autonoma o non autonoma, a prescindere sull'efficacia. Magari vi posso dire la letteratura, dico, cioè questo funziona un po' di più, ma comunque stiamo parlando, ve l'ho detto prima, no? Di ogni 5 trattati uno che recupera in più. Però l'aspetto fondamentale è anche il tempo, cioè con questo qua si fa prima, con quello là ci vuole un bel po' più di tempo. Lo posso decidere io se farlo stare 5 mesi o 6 mesi il paziente in ospedale? No. Infatti per quello anche quei terapisti protestano, dicono, ma come, se tu mi accorci il ricovero a 2 mesi, io non mando nessuno dei miei pazienti se ne torna col bastone, se ne tornano a casa tutti con la carrozzina, ok? È chiaro che poi dopo anche il terapista si sente, cioè come 2 mesi non ho fatto niente, no? Però prima 6 mesi si poteva stare, adesso 6 mesi la Polverini si mette in galera per come c'hanno l'economia, no? Cioè i tempi di ricovero, accorciare i tempi di ricovero nel neurologico è stata una priorità mondiale, italiana. Chiaramente in Emilia Romagna, in Toscana, in Lombardia si sono adeguati molto prima, in altre regioni se lo sbatti di fronte al problema fai fatica ad adeguarsi, no? Per un sistema, coscienza politica, non so qual è la motivazione, ma non sto qui a fare un trattato di politica e sociologia. Però adesso da questo nascono i grossi problemi, no? Ma anche in Santa Lucia comunque si è ridotto sempre di quel giorno di ricovero. Vabbè, basta. Ciao Betta, grazie.